acquisita durante il progetto. Ovviamente un certificato di questo tipo inserito nel curriculum vitae può sicuramente dare un valore aggiunto al profilo dei soggetti che partecipano agli scambi. Bene, facciamo una brevissima pausa, non andate via. Radio Libriamoci Web. Di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in azione. Bentornati, oggi stiamo parlando di scambi giovanili internazionali finanziati nell'ambito del programma Gioventù in Azione. Abbiamo qui con noi un testimone diretto, Riccardo Marinaro, un giovane partecipante ad uno scambio giovanile svoltosi a Bivona dal 7 al 14 luglio 2011, dal titolo Move to Me, che ha visto 32 ragazzi provenienti da Italia, Turchia e Repubblica Ceca insieme a parlare di cittadinanza europea attraverso lo sport. Riccardo, cosa puoi raccontarci dell'esperienza? Allora, dell'esperienza posso subito dire che è stata fantastica e me ne sono già accorto dal primo giorno, quando sono arrivati ragazzi di età diverse. C'erano i cechi che avevano un'età media di 15-16 anni, mentre i turchi un po' più grandi, studenti di medicina, 22-23 anni. E le età diverse, quindi le culture diverse, non sono stato un ostacolo alla socializzazione tra di noi. Infatti subito abbiamo stretto un ottimo rapporto grazie anche ai tutor che ci hanno aiutato con le varie attività che svolgevamo durante il giorno, anche durante la sera. Puoi far capire ai radioascoltatori qual era la giornata tipo dello scambio Move to Me? Sì, ci si alzava intorno alle 9 del mattino per iniziare le attività e di solito alcune giornate erano, diciamo, dedicate a delle escursioni in montagna, quindi erano più che altro attività fisiche. Infatti ricordo con tanto piacere la giornata dei giochi, e abbiamo mischiato giochi caratteristici italiani, turchi e cechi, e abbiamo passato un pomeriggio fantastico, appunto perché grazie anche ai giochi ci si relazionava tantissimo. Poi c'era l'escursione in montagna, e si andava a pranzo tutti assieme, si andava a cena rigorosamente tutti assieme, proprio perché il gruppo doveva stare unito proprio per permettere la socializzazione tra di noi. Cosa ti ha lasciato questa esperienza? L'esperienza mi ha lasciato moltissime amicizie che continuo a coltivare e soprattutto un modo di pensare diverso dato dallo scambio appunto tra le tradizioni, e proprio perché quando tu ti metti a confronto con delle persone che sono nate in un posto diverso e quindi che hanno avuto un modo di pensare diverso proprio dato dalle tradizioni, riesci a pensare anche tu in maniera diversa e quindi ad allargare insomma un pochettino la tua mente. Il tutto è stato concretizzato pure in una canzone, in un inno che abbiamo creato noi stessi e abbiamo proprio intitolato come il progetto Move to Me, che proprio parla delle sensazioni che abbiamo provato durante questa settimana fantastica insomma con tutti i ragazzi. E il tutto poi, cioè il l'inno è stato registrato nella sala incisione del comune di Bivona. Bene, ringrazio Riccardo Marinaro, noi torniamo tra pochissimo. Radio Libriamoci Web. I don't wanna breathe no more. I don't wanna live. I don't wanna cry no more. I have no more tears to give. The way you made me feel, I know I'll never feel again. And to know I'll never hear your voice is tragic. I know I can't feel a thing, but I know this world is cold and it isn't. To walk out alone, I feel so alone and I get so scared. Without your touch, I need it so much, and I just can't stay, to know that you're gone. I can't believe you're gone. Yeah, it's so unfair. Can't grieve, I'm bored of feeling. That's the way I choose to live. A loss with no good reason, and that's what I can't forget. The way you made me feel, I know I'll never feel again. And to know I'll never hear your voice is tragic. I'm numb, I can't feel a thing, but I know this world is cold and it isn't. Say, yeah, yeah. To walk out alone, I feel so alone and I get so scared. Yeah, yeah. Without your time, I need it so much, and I just can't stay. I can't believe you're, yeah, it's so unfair. You're not here, so why won't you just go? Even when you're here, you're so damn cold. Dal 2009 ti parla di libri, turismo, ambiente e territorio. Da spazio al sociale, per non dimenticare e dare voce a chi non ne ha, ti accompagna giorno e notte con il meglio della musica copyleft mondiale. Radio Libriamoci Web. Libera, solidale, divertente. Radio Gioventù in azione. Siamo tornati nello spazio Radio Gioventù in azione. Siamo in compagnia di Angela Solaro. Angela, come puoi aiutare lo sportello nella presentazione dei progetti? Dunque, diciamo subito che lo sportello può aiutare non soltanto nella presentazione di progetti in accoglienza, ma anche nella ricerca di opportunità di partenze e quindi di scambi in uscita per i paesi europei. Per quanto riguarda gli scambi in accoglienza, è possibile recarsi allo sportello, chiedere consulenza su dove trovare la documentazione relativa alla presentazione dei progetti, quindi farsi indicare il sito, farsi scaricare la documentazione e avere supporto nella compilazione del progetto. Ma non solo, se si vuole invece partire per scambi giovanili in Europa, è possibile iscriversi alla banca dati che lo sportello aggiorna ormai da circa 2 anni, dove raccogliamo una serie di potenziali nominativi di giovani partecipanti di scambi giovanili, così come è avvenuto l'anno scorso in agosto per alcuni ragazzi di Bivona. Angela, dici qualcosa in più di questa esperienza? Sì, questa esperienza si è svolta in Romania lo scorso agosto e hanno preso parte 4 ragazzi di Bivona che avevano partecipato allo scambio di Move to Me con Riccardo, e lo scambio verteva sull'uso delle fotografie nei paesaggi rumeni, e attraverso la fotografia si è discusso sul superamento degli stereotipi legati soprattutto al popolo rumeno. Il risultato principale di questo progetto sono state delle mostre allestite dai ragazzi quando sono tornati nei loro paesi, I ragazzi di Bivona hanno allestito una mostra fotografica che è allestita permanentemente presso il comune di Bivona. Ringrazio Angela Solaro e Riccardo Marinaro. Ricordo che questa puntata andrà in replica alle 22.30 di questa sera. Noi ci risentiamo giovedì prossimo alle 18.05 con altri ospiti. Un saluto da Anna Maria. Radio Gioventù in azione.